essere indegno di qualcosa che è qui dentro. Ho sbagliato perché odiavo il mio dolore. Ho sbagliato perché mai avrei sognato che un giorno del tuo amore sarei inebriato. Show up.